oggi, qui si diceva nel titolo, no? Se tu me lo dai un secondo, uno con una per sempre, aspetta, fammelo dire esattamente. Uno con una per sempre, esattamente. Ma quel per sempre, come vedete, non è che voglio evitare il dibattito sull'uno con una, sulle coppie di fatto e sulle coppie omosessuali, se vorrete me lo chiedete. Ma quello che mi interessa oggi, il vero problema per me è il per sempre. Il vero problema della nostra società, il vero problema della società in cui quasi certamente 99,9 di voi siete immersi, è sul per sempre. Ed è la capacità di riappropriarci del senso di quel per sempre. Guardate che questa è la principale mission che tocca a voi nella società di oggi. Come si fa a garantire il per sempre? Certamente ce ne potremmo lavare le mani, c'è un problema suo, un problema suo, ma non è vero. È anche un problema dell'assunzione condivisa della responsabilità, diciamo tra virgolette, della fedeltà, che è una fedeltà profonda, perché è la fedeltà che è generativa di un soggetto che cambia continuamente. Ed è una generatività faticosa. Scherzando, tante volte noi abbiamo detto che tutte le favole, quelle favole che ci piacevano da piccoli, spero che voi non abbiate visto l'ultimo film, oppure l'avete visto perché è divertente e dissacrante, l'ultimo film di Biancaneve, quello di Julie Andrews, in cui Biancaneve sembra un idiota totale assoluta, il principe, guardate, è meglio perderlo che trovarlo, e l'unica cosa è la perfidia assoluta della madre di Biancaneve che gestisce tutte le cose, l'unica, lei è bravissima. Però tutte le favole come finirono? E vissero 100 anni felici e contenti, appagati che qualcuno abbia scritto un giorno di quella quotidianità. Nessuno ha mai speso una parola per spiegare come fecero a vivere 100 anni felici e contenti, perché alla fine il segreto è: mi spieghi come si fa a vivere 100 anni felice e contenti? È questa seconda parte della favola, cioè la seconda fase, quella che nessuno ha avuto il coraggio di scrivere, ma quella che noi dobbiamo scrivere esattamente con l'esperienza della nostra quotidianità. Cioè, a noi ci tocca dimostrare, se volete, nel contesto sociale in cui viviamo, che è possibile. Quando noi vogliamo difendere il matrimonio, in questo senso, il matrimonio lo si difende se si dimostra che la fedeltà è possibile, se si dimostra che la stabilità e il grado di coesione, appunto, intergenerazionale del matrimonio è possibile. Perché le teorie sono sempre facilmente contestabili da quelli che sono brutalmente i numeri della statistica. A noi ci dicono che il numero di matrimoni che entrano in crisi proporzionalmente è sempre maggiore, che il numero delle coppie di fatto che si formano ha raggiunto il numero dei matrimoni e che il numero delle separazioni ha raggiunto il numero dei matrimoni. Per cui è come se stessimo consumando un'eredità. Allora ci si chiede, ci si interroga, ma qual è l'operazione? Di che cosa possiamo noi, come dire, immettere nel tessuto della società, nel torrente della società, una sorta di flebo che restituisca vigore alla famiglia, che restituisca intensità al legame, al legame di coppia? Come facciamo? Beh, non c'è dubbio che l'esempio è la cosa migliore. Ma perché è la cosa migliore? Perché l'esempio è la fatica del quotidiano che io posso rendere narrabile, condivisibile, del tutto privato di quella zuccherosa ondata di sentimentalismo che l'esperienza del quotidiano ci dice essere totalmente falsa. Viceversa ci dice della fatica dell'ascolto, viceversa ci dice della capacità di posporre sistematicamente la mia narrazione di ciò che è accaduto oggi per rendermi disponibile all'ascolto della tua narrazione di quello che è accaduto oggi. D'altra parte, parte, guardate, in questo non c'è niente di più eloquente dell'esperienza dei figli di età vicina tra di loro, quando qual è il bene maggiore per cui contendono questi ragazzi, nell'età in cui fortunatamente contendono per questo bene, è il tempo dell'ascolto dei genitori. Ecco, quello che potrebbe rendere drammatica la cena, oppure assolutamente faticoso il pranzo, quando ognuno ruba la parola all'altro, quando uno... E ci rendiamo conto che al di là di tutta questa che potremmo considerare un bailame assoluto, che è una grazia di Dio, finché dura, è una grazia di Dio, dietro a questo bailame c'è il bisogno assoluto di raccontare. A un certo punto, quando mi rendo conto che tu non mi ascolti, io non ci provo più nemmeno a raccontarmi quello che sta accadendo. E allora è il tempo del silenzio. È il tempo in cui non abbiamo nulla da dirci, a tal punto che la vita insieme diventa mortalmente noiosa e c'è bisogno di riempirla con un'altra coppia, con un'altra cosa, con un'altra situazione. E subentra quella tentazione pazzesca, ma assolutamente frequente, basta andare in giro per le strade da rendersi conto, del non ritorno a casa. Torno quotidiano, che significa che potrei tornare a casa alle 7 e invece torno alle 8:30. Tanto che ci torno a fare io a casa se nessuno mi dà retta. Probabilmente poi subentra anche l'idea che sto per cena fuori. Ma che ci torno a fare se tu non ti occupi di me? E allora abbiamo quegli sgocciolamenti, no? Proprio del tempo di lavoro che sembra dilatarsi, perché a conti fatti mi risulta più interessante condividere le mie ansie, le mie pene, le mie preoccupazioni con i colleghi che non con te, che non mi ascolti, non mi capisci, non condividi e per di più mi rendi anche più pena. Perché devo venire a casa a farmi del male? Laddove invece l'esperienza della vita di famiglia è che io torno a casa appunto perché tu ti prenda cura di me. Evidentemente questo è una relazione di reciprocità, eh? Perché se era un classico il marito che tornava a casa tardi, sta diventando velocemente un classico anche la moglie che torna a casa tardi. Guardate, beati coloro che cercano scuse, è l'undicesima beatitudine, perché le troveranno sempre. Le troveranno sempre. E allora voi vedete che si assottiglia il tempo della condivisione, perché è diventato un tempo vuoto di contenuto, una specie di vuoto climatico. Non ci sono i pensieri, non ci sono gli affetti, ci sono magari soltanto le richieste. Che c'è stasera a cena? Oppure c'è la richiesta, ormai non c'è più nemmeno il televisore, normalmente c'hai il televisore acceso, il cellulare all'orecchio e, se ti capita, l'iPad accanto al piatto. Cioè il vuoto affettivo, il vuoto di idee si struttura intorno a una logica tecnologica che sembra restituirci uno stile di messaggio, che sia Facebook o che sia un twitteraggio, dico io, a 140 caratteri, quindi anche un pensiero molto sintetico che non mi impegna più di tanto, e magari posso anche scrivere che ho 2500 amici, 3000 amici, tanto adesso sono anche gli amici che si comprano in supermercato, sapete, i pacchetti delle persone a cui ti seguono. Ma perché non ho più capacità di dire, di raccontare, di esprimere? È allucinante il fatto, e sapete che è così, eh? ormai Facebook rientra anche nelle cause di separazione, perché ci si comunica indirettamente delle cose attraverso Facebook, che non c'è la semplicità di dircele tranquillamente, non c'è la semplicità di un ascolto che va alle cause prima ancora che tu finisca di parlare. Io ti sto già dando una risposta che non esaurisce il senso della domanda, perché la domanda che tu mi poni è una domanda che tocca un quesito concreto, quello che sia, è una domanda che tocca gli affetti, le emozioni, gli stati d'animo che ci sono dietro, è una domanda che tocca un universo di valori. Io non ti permetto di esprimere, perché subito subito già una risposta che tacita, che chiude, invece di avere un ascolto che apre, che, come dire, che incoraggia a procedere verso nuove strade. Allora, bisogna, come sempre succede nei tempi di crisi, tornare ai fondamentali. E i fondamentali, guardate, sono sempre quelli. I fondamentali sono nutrire non la cultura del sospetto nei confronti del legame che potrebbe entrare in crisi, quanto piuttosto nutrire la delicatezza della consapevolezza del valore di quel legame e la prudenza e la delicatezza nel custodirla. Cioè non è che io custodisco questo legame perché sospetto che tu possa, come dire, sfilacciarlo, sfibrarlo, perché prima che un legame si rompa è stato sfilacciato e sfibrato. Non si rompe mai così, si rompe tutto in un pezzo, un legame che in qualche modo è come un ramo secco, ha già perso la sua linfa vitale. Se è un legame vivo si sfilaccia, si sfibra. Non è possibile che tu non percepisca e non intervenga positivamente alla riparazione di questo legame. In medicina sapete tutti che i momenti clou sono tre: la prevenzione, diagnosi e cura, e poi la riabilitazione. Qualcosa di analogo va fatto con i nostri legami. La prevenzione, attenzione, e in questo c'è una cultura condivisa. Una cultura al femminile condivisa. Una volta c'erano i cortili delle donne, in cui le donne sì che rammendavano quello che vi pare, la calza, facevano la maglia, ma in realtà rammendavano i loro legami, cioè parlavano insieme, condividendo le esperienze, dandosi suggerimenti, e questi avevano un unico target: come custodire il senso della famiglia, come custodire l'unità della famiglia, come in qualche modo riprogettare l'esperienza, se vuoi, del perdono, o come riproiettare l'esperienza della riconquista. Erano i cortili delle donne, la grande ricchezza di un paese, la grande ricchezza di una cosa. Perché lì si faceva manutenzione dei legami. Oggi la cultura nostra dice: ma chi te lo fa fare? Ma lascialo stare, ma rompi, ma non vale la pena. Oggi la cultura è esattamente quella che si applica a tutte le esperienze che facciamo: usa e getta. Eppure, guardate, nella nostra cultura ci stiamo rendendo conto che con questo usa e getta stiamo accumulando talmente tanti rifiuti, lo dico in senso macroscopico, che sta tornando di moda la cultura del riciclo. E speriamo che piano piano questo diventi metafora. Anche perché insisto, tutte le volte che noi riprogettiamo la nostra vita, con la fantasia tutt'al più arriviamo all'esperienza, chiamiamola così, dei 60 anni. Quasi mai ci rendiamo conto del bisogno dell'altro, del bisogno del vincolo, del bisogno della relazione, che pure c'è in una parte importantissima della nostra età. Oggi la vita si svolge, i primi 40 anni, che sono veramente gli inizi dell'esperienza, gli inizi delle cose, questa pienezza dei 40-65, ma l'altra parte è lunghissima. E buttar via significa condannarsi a un'esperienza sicuramente di impoverimento, di solitudine, ci si ammala molto più velocemente, non ci si cura adeguatamente e ci si aprono spazi enormi di disagio, di dolore, di sofferenza. Allora, ecco che quando dico per sempre, il per sempre non è il per sempre delle favole e del bacio del principe azzurro e il fatto che io finalmente mi sveglio, anche voglio capire quella come si è svegliata, che ha capito. Ma il per sempre è davvero il per sempre. E allora dobbiamo riuscire a restituire molte persone, peraltro drammaticamente, facendo tesoro di esperienze che ci sono intorno a noi. Esperienze di solitudine, esperienze di sofferenza, esperienze drammatiche. E allora non possiamo non tradurre tutto questo in una riscoperta del valore che, insisto, si chiama manutenzione del legame, perché questo legame duri per sempre. Grazie. Ringrazio.